Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La visita di Gheddafi ha lasciato una coda di polemiche da parte di chi non trova corretto che in nome degli interessi economici si possono accettare le esternazioni del dittatore libico e dimenticare il mancato rispetto dei diritti umani nel suo paese. Ma la storia dell'Italia repubblicana è piena di incontri con personaggi imbarazzanti, sui quali si è chiuso un occhio in nome della Realpolitik. Arafat alla Camera, Fini da Milosevic, Scalfaro che stringe la mano sorridente a Castro, Prodi che non riceve il Dalai Lama per evitare le ire di Pechino, sono solo alcune chicche della Realpolitik all'italiana. Non c'è solo il buon viso a cattivo gioco di Silvio Berlusconi di fronte alle pagliacciate in salsa islamica del colonnello Gheddafi, in cambio di contratti e quant'altro. Così fan tutti e anche peggio, per motivi più o meno confessabili, talvolta partigianeria, ma nella gran parte dei casi machiavellismo politico o interessi economici. E la lista degli ospiti discutibili, in nome della Realpolitik o della Realekonomik, è lunga. Nel 1982 il compianto Giovanni Spadolini si oppose con tutte le forze all'arrivo in Italia di Yasser Arafat. Il presidente Sandro Pertini ci mise lo zampino e Arafat, in divisa oliva, kefia a scacchi bianca e nera, cinturone della pistola al fianco, parlò alla Camera dei Deputati scortato da guardie del corpo armate fino ai denti. In piena guerra fredda, ambasciatori e governanti italiani strinsero le mani dei gerontocrati comunisti del Cremlino e delle loro pedine più o meno affidabili come Ceausescu in Romania, Honecker in Germania Est e Jaruzelski in Polonia. Tutti non certo esempi di democrazia, che però, soprattutto in URSS, garantivano contratti a cominciare dalla Fiat. In confronto, Alexander Lukashenko, padre padrone della Bielorussia, che Berlusconi ha incontrato, è un santerellino. Per non parlare dell'ineffabile Mariano Rumor, che nel 1975 firmò il famigerato Trattato di Osimo con la Jugoslavia di Josip Broz Tito, che aveva le mani sporche di sangue degli italiani infoibati. Non solo. In nome della Realpolitik, Osimo calava una pietra tombale sulle rivendicazioni di 250.000 esuli istriani, fiumani e dalmati. Proprio per l'impossibile obiettivo di avere indietro l'Istria e la Dalmazia, l'allora segretario del Movimento Sociale, Gianfranco Fini, si recò a Belgrado il 2 agosto 1991 alla corte dello zar socialista dei serbi Slobodan Milosevic. La Jugoslavia aveva già cominciato ad esplodere. In seguito, Slobo, che con l'Italia chiuderà l'affare Telecom Serbia, fu omaggiato da Lamberto Dini, Piero Fassino e altri. Nel 1999, quando la NATO decise di bombardare la Serbia, arrivò a Belgrado pure Umberto Bossi. Pochi anni dopo, Milosevic finirà i suoi giorni dietro le sbarre dell'AIA, accusato di crimini di guerra. Con il vecchio Saddam Hussein eravamo pappa e ciccia per tutti gli anni Ottanta, quando faceva la guerra all'Iran che costò 1 milione di morti. Gli affari andavano a gonfie vele, anche se alcune corvette ordinate alla Fincantieri le abbiamo potute consegnare all'Iraq solo poco tempo fa, perché nel frattempo Saddam si era inimicato gli americani. Roberto Formigoni ha cercato fino all'ultimo di dare una mano a Tareq Aziz, braccio destro del Rais, per evitare l'invasione dell'Iraq. Con l'Iran abbiamo rapporti economici importanti, a cominciare dal settore petrolifero, dai tempi dello Shah e di Enrico Mattei. Con gli Ayatollah poco è cambiato su questo piano. Solo nel febbraio scorso l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, ha annunciato che i vecchi contratti saranno onorati, però non ne facciamo e non ne faremo di nuovi. Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è sbarcato a Roma per il vertice FAO del 2008 assieme a personaggi come l'ottuagenario padre padrone dello Zimbabwe, Robert Mugabe. Nonostante le polemiche, Ahmadinejad ha riunito in un albergo di Roma decine e decine di imprenditori e rappresentanti di banche e società importanti, secondo il motto «Pecunia non olet». Quando di mezzo ci sono tanti soldi, le rigidità dei regimi coinvolti passano spesso in secondo piano per Realekonomik. Nel 2007 il presidente del Consiglio, Romano Prodi, faceva sapere con una lettera che precedenti e inderogabili impegni internazionali non gli permettevano di incontrare il Dalai Lama. In realtà in Italia il leader tibetano sembrava quasi un appestato a causa dei fulmini e saette che i cinesi lanciano a chiunque lo incontri e delle ritorsioni in campo economico. Invece non c'è nulla da guadagnare o quasi tutto da perdere nel dar credito a vetusti rivoluzionari trasformati in leader a vita in nome del socialismo, come Fidel Castro. Una curiosa foto nella galleria in rete del Quirinale mostra il sorriso smagliante del presidente Oscar Luigi Scalfaro mentre stringe la mano al barbuto Fidel, a Roma, nel novembre del 1996. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo da Arafat a Castro, la Realpolitik fa chiudere un occhio, dal Giornale del 1 settembre. Reclutato grazie ad un passaparola che circolava in rete dopo le proteste lanciate dall'Associazione Nazionale Partigiani di Como e dal Comitato per la Difesa della Costituzione, lunedì scorso un gruppo di manifestanti ha impedito a Marcello Dell'Utri di presentare all'interno della manifestazione Parolario il suo libro sui presunti diari di Mussolini. Si può discutere sull'autenticità dei diari o sull'opportunità di pubblicarli, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, ma impedire a qualcuno di esprimere le proprie opinioni significa non rispettare le regole di base della democrazia. Cosa crederanno di aver dimostrato impedendo a Marcello Dell'Utri di parlare? Di compiere un'azione fieramente antifascista, visto che a contestarlo a Como è stata l'Associazione dei Partigiani? O di irrobustire la lotta alla mafia, come avranno pensato i giovani dei centri sociali che lo hanno fatto andar via? O di dar vita all'ennesima manifestazione di intolleranza, togliendo il diritto di parola a un politico bollato e vituperato come un nemico mostruoso? La solita storia, purtroppo, che in questo caso si tinge anche di un po' di grottesco, visto che la colpa di Dell'Utri sarebbe quella di voler pubblicare dei diari di Mussolini. E allora, quale sarebbe il delitto? I presunti diari del Duce stanno già suscitando molte polemiche sulla loro asserita, ma non dimostrata, autenticità. E si può discutere, anzi si deve discutere, la pretesa di Dell'Utri di accreditarne la paternità mussoliniana senza l'ausilio di perizie indipendenti, di valutazioni storiche, di esami spassionati. Ma la polemica culturale non c'entra niente con le liturgie della messa al bando decretata da un manipolo di prepotenti. Il bavaglio è un brutto simbolo. Sempre, non a giorni alterni. Trasformare una discussione politica in un tema di ordine pubblico, poi, rappresenta un atto di intimidazione, anche se animato dalle migliori intenzioni. Nessuno può arrogarsi la facoltà di stabilire chi può parlare e chi no. Nessuno può calpestare il diritto costituzionalmente tutelato di esprimere in una manifestazione pubblica le proprie opinioni. Non dovrebbe essere difficile, basta rispettare le regole della democrazia. Senza distinguo pretestuosi, senza eccezioni. Eccezioni, tra l'altro, unilateralmente decise da chi è più bravo a urlare in piazza. No, la democrazia non funziona così. E spiace doverlo ricordare ai partigiani che contribuirono alla rinascita della democrazia in Italia dopo gli anni della dittatura. Così come bisogna ricordarlo a chi pensa di rafforzare la lotta alla mafia negando a Dell'Utri il diritto di dire la sua, qualunque essa sia. E se pensano di ottenere consenso con azioni corali di disturbo e di intimidazione, si sbagliano. La loro azione è pure controproducente, oltre che intollerante. Basta attenersi a una regola semplice semplice. Tutti hanno lo stesso diritto di parola. Tutti. Nessuno escluso. È davvero così difficile? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista? I diari del Duce sono discutibili. Zittire chi li pubblica è prepotenza. Dal Corriere della Sera del 31 agosto. Domenica scorsa il giovane campione di motociclismo Peter Lenz, 13 anni, è morto a causa di un incidente avvenuto durante un giro di prova, prima di una delle gare di contorno che precedevano il Moto Mondiale di Indianapolis. Quello che colpisce è che molti appassionati sportivi, inclusi i genitori del ragazzo, considerino normale che un adolescente si possa dedicare a sport estremi. Dicono che per diventare campioni bisogna cominciare da piccoli. ma la notizia di un 13enne morto per un incidente in moto a Indianapolis è di quelle che lasciano sbalorditi. Un ragazzino di Washington, Peter Lenz, caduto durante un giro di ricognizione della sua categoria, è stato travolto da un'altra moto. L'ansia di successo può uccidere. Dicono che conoscendo il mondo delle moto non bisogna troppo stupirsi. Raccontano che Valentino ha cominciato a correre a 6 anni, Lorenzo a 5, Stoner a 4 o forse addirittura a 3 anni e così via. È normale. Per diventare campioni a 16 o a 18 anni, come in tutti gli sport, bisogna cominciare da piccoli. È normale. Moto racing is dangerous. Il motociclismo è pericoloso. Ciò non toglie che per chi non ha mai frequentato i circuiti, la morte di un bambino di 13 anni in seguito a un incidente sulla pista di Indianapolis sia una di quelle notizie che lasciano sbalorditi e increduli. È successo domenica che Peter Lenz, un ragazzino di Washington caduto dalla sua Honda Moriwaki 250 durante un giro di ricognizione della categoria US GP Race Union, è stato travolto da un'altra moto ed è morto poco dopo. A niente è servito il massaggio cardiaco dei medici. Il padre ha dato l'annuncio un paio d'ore dopo su Facebook. Peter è deceduto facendo quello che amava. Lassù, correrà più forte. Qualcuno si è precipitato a commentare su un blog. Coloro che si sono permessi di fare commenti sulla giovane età del centauro, oltre a essere degli imbecilli, probabilmente non conoscono nulla degli sport motociclistici e farebbero bene a tenere la bocca chiusa. A bocca chiusa si potrebbe postillare che già la parola centauro, accostata a un bambino, fa venire il capogiro e che ci vuole una bella dose di pura follia per considerare normale che un ragazzino rischi la vita con il consenso di papà e mamma. Per quale oscure ragioni? Per appagare l'ansia di successo e di denaro? Dei genitori e di chi se no? Per soddisfare un'ambizione familiare che in passato è stata frustrata? Per semplice debolezza dell'autorità paterna e materna? Per la sua passione, ribadiranno quelli, proprio convinti o ipocriti, che frequentano il circo delle moto. Ma non vale la pena rispondere che anche le passioni spesso hanno qualcosa di insano, specie se vengono instillate, trasmesse o banalmente assecondate in età troppo giovane. Certe volte c'è da essere fieri della propria imbecillità di genitori prudenti. L'iperprotettività dilagante nei confronti dei figli e l'incoscienza, la sconsideratezza, la temerarietà, la fierezza emulativa, chiamatela come volete, sarà lecito ritenere che esistano pure delle sfumature intermedie, senza bisogno di passare per moralisti. E saranno moralisti anche quelli che si stupiscono nel constatare che domenica l'incidente di Peter non è bastato a interrompere la corsa? E dà una fitta al cuore osservare su YouTube il filmato del piccolo, piccolo Peter Lenz sorridente, la felpa arancione da bambino e un tutore alla gamba sinistra, probabilmente per una precedente frattura, che spiegava con voce infantile e allegra le ragioni della sua passione. E alla fitta al cuore, sapendo com'è finita la sua breve vita, si aggiunge la rabbia quando si passa in rassegna nel suo sito la lista infinita di sponsor prima di vederlo sfrecciare in pista sul suo bolide rosso. Bisogna andare alle news per trovare, dopo le notizie dei tanti successi passati, l'ultimo messaggio paterno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Di Stefano «La morte del pilota tredicenne, quando si rischia troppo presto», dal Corriere della Sera del 31 agosto.